conosciuto Gerico. Ho avuto anche io la mia Palestina. Le mura del manicomio erano le mura di Gerico e una pozza di acqua infettata ci ha battezzati tutti. Lì dentro eravamo ebrei e i farisei erano in alto e c'era anche il Messia, confuso dentro la folla. Un pazzo che urlava al cielo tutto il suo amore in Dio. Noi tutti, branco d'asceti, eravamo come gli uccelli e ogni tanto una rete oscura ci imprigionava. Ma andavamo verso la messe di nostro Signore, Cristo il Salvatore. Fummo lavati e sepolti. Odoravamo d'incenso. E dopo, quando amavamo, ci facevano gli elettroshock, perché dicevano: un pazzo non può amare nessuno. Ma un giorno, da dentro l'avello, anch'io mi sono ridestata e anch'io, come Gesù, ho avuto la mia risurrezione. Ma non sono salita ai cieli. Sono discesa all'inferno, da dove guardo stupita le mura di Gerico antica. Ogni mattina il mio stelo vorrebbe levarsi nel vento, soffiato ebrietudine di vita, ma qualcosa lo tiene a terra, una lunga, pesante catena d'angoscia che non si dissolve. Allora mi alzo dal letto e cerco un riquadro di vento e trovo uno scacco di sole entro il quale poggio i piedi nudi. Di questa grazia segreta dopo non avrò memoria, perché anche la malattia ha un senso, una dismisura, un passo. Anche la malattia è matrice di vita. Ecco, sto qui in ginocchio aspettando che un angelo mi sfiori leggermente, con grazia. Intanto accarezzo i miei piedi pallidi con le dita vogliose di amore. Forse bisogna essere morsi da un'ape velenosa per mandare messaggi e pregare le pietre che ti mandino luce. Per questo io sono scesa nei giardini del manicomio. Per questo di notte saltavo i recinti vietati e rubavo tutte le rose. E poi, prima di morire di nuovo il mio giorno, oh notte, lunga notte di solitudine assente, oh devastati giardini, dove io sola vivevo, perché l'indomani sarei morta ancora di orrore. Ma la sera, oh la sera, nei giardini del manicomio, a volte io facevo all'amore con uno disperato come me in una grotta di orrore. Il mio primo trafugamento di madre avvenne in una notte d'estate, quando un pazzo mi prese, mi adagiò sopra l'erba e mi fece concepire un figlio. Il mio primo trafugamento di madre avvenne in una notte d'estate, quando un pazzo mi prese, mi adagiò sopra l'erba e mi fece concepire un figlio. Oh, mai la luna gridò così tanto contro le stelle offese, e mai gridarono tanto i miei visceri. Oh, mai la luna gridò così tanto contro le stelle offese, e mai gridarono tanto i miei visceri. Né il Signore volse mai il capo all'indietro come in quell'istante preciso, vedendo la mia verginità di madre offesa dentro un ludibrio. Né il Signore volse mai il capo all'indietro come in quell'istante preciso, vedendo la mia verginità di madre offesa dentro un ludibrio. Il mio primo trafugamento di donna avvenne in un angolo oscuro, sotto il calore impetuoso del sesso. Il mio primo trafugamento di donna avvenne in un angolo scuro. Sotto il calore impetuoso del sesso. Ma nacque una bimba gentile, con un sorriso dolcissimo. E tutto fu perdonato. Ma nacque una bimba gentile, con un sorriso dolcissimo. E tutto fu perdonato. E tutto fu perdonato. Ma io non perdonerò mai. E quel bimbo mi fu tolto dal grembo e affidato a mani più sante. Ma io non perdonerò mai. E quel bimbo mi fu tolto dal grembo e affidato a mani più sante. Ma fui io ad essere oltraggiata. Fui io ad essere oltraggiata. Fui io ad essere oltraggiata. Io che salì sopra i cieli per avere concepito una genesi. Io che salì sopra i cieli per avere concepito una genesi. Perché nessuno può amare un pazzo. Perché un pazzo non può amare nessuno. Perché nessuno può amare un pazzo. Perché un pazzo non può amare nessuno. Nessuno. Nessuno. Mi chiamo Mario Tobino. Sono nato il 16 gennaio del 1910. Da 40 anni sono direttore psichiatrico della sezione femminile del manicomio di Maggiano, un piccolo paese a pochi chilometri da Lucca. Io non ho solo lavorato al manicomio di Lucca. Non sono stato soltanto medico dei matti. Io qui ho abitato 2 stanzette, tuguri e villa. 40 anni, ora per ora, con i matti. Anche in questo momento che sono con la penna in mano, mi arrivano le parole dei malati che parlano tra loro, seduti sul muretto del viale, qui sotto la mia finestra. E persino so chi sono. Ne distingo la voce. Era notte del 31 dicembre del 1980. E dopo 40 anni, domani, precisamente dalla mezzanotte di questo 31 dicembre, nei manicomi non si accetta più nessuno. La legge 180 entra in vigore. E dei malati che in quell'ora saranno lì, viventi, non si sa che cosa ne avverrà. La legge sembra che non lo dica. Cala il sipario e la follia non recita più. Questa più o meno la nuova legge, ma nelle linee sostanziali pronta a calare giù. Non mi ricordo bene, doveva essere circa 30 mesi fa e tornavo dalla passeggiata che dal francese riporta al manicomio e mi ero soffermato dal portiere per 4 chiacchiere e avevo ripreso la leggera salita del viale. E fu proprio alla curva, davanti a quel paesaggio tante volte contemplato. Discende un valloncello, poi c'è una collina che monta, che ha sulla cresta, lungo tutto il suo arco, proprio sulla cima, una fila di alberi distanti tra loro pochi metri. Si vedono come sorgere dalla terra, salire col fusto, le braccia dei rami, il tremolio delle foglie, e il cielo è intrecciato a loro sin dalle radici, tra i fusti, i rami, le foglie. È come se il celeste conversasse con le piante in intimità, e intanto si eleva maestoso. Le piante hanno intorno soltanto cielo e sono abbracciate da quello. È un paesaggio che sempre mi commuove. Fu appunto alla curva, mentre contemplavo, che sentii lo stiletto qui dentro al petto. La sera era particolarmente serena. Mi arrivò sottile l'avvertimento, divenne più pesante, mi dette dolore. L'avvertimento che presto, molto presto, dovevo andarmene, che quel paesaggio non sarebbe stato più mio, né familiare, né di tutti i giorni, né consueto. Dovevo abbandonare Maggiano, il manicomio, scoccavano e piombavano i 70 anni, via. Via di qui, la mia casa, il mio lavoro, il medico, di scrittore, via, era finita, dovevo andare altrove. Sì, avrei forse potuto tornare come un ladro di sfuggita. Non più Maggiano parte di me, né io di lui. e capì che dopo quella sera i giorni avrebbero preso a correre, precipitati, un cuore che batte in fretta, stupefatto e smarrito. Stava calando la verità. Il vento notturno che avvinghia, che si avvicina il giorno della pensione col dito che indica. Dopo l'avvertimento, andai nelle mie due stanzette e le guardai con insistenza. La prima stanza e la seconda. Ogni loro particolare in me impresso, il colore dei muri, le due scrivanie, in ogni oggetto lo stampo di odi e di amori, il rosario dei miei pensieri. E tra quelle pareti tutta la mia vita, sulla quale stava per calare la saracinesca. Il manicomio di Lucca è come un bastimento che è stato accorato in una rada. Non si monta più a bordo. Pochi ne scendono e sono quelli che qualcuno di fuori se le viene a prendere oppure ci pensa la morte. È ancora un bel bastimento che per un ordine superiore non naviga più. Avrebbe tutto per veleggiare, per riprendere il mare, ma è vietato. Se ne sta lì, in quella rada, con circa 600 passeggeri ad attendere che i suoi legni e la carne degli ospiti marciscano. Tutto si faccia polvere. È stato dato un ordine superiore, una persona chiamata 180, forse un enigma, una legge, forse l'emblema della giustizia e del progresso. Il bastimento della follia è ancorato immobile. Nuovi deliri non sono accettati, non si ricevono nuovi passeggeri. Nuovi, i freschi, i vergini debbono presentarsi nella vicina Lucca. In certe stanzette dell'ospedale civile, lì stretti, il rattrappito luogo è che non siano più di 15. Il bastimento che lentamente e pateticamente si scolora, ha preso qualche cosa di più bello, un lento addio. I deliri dei recuperati svaniscono così come i loro corpi. Il bastimento tacitamente si ancorò nella rada, nell'insenatura, in un porto solitario, che a volta dell'innaturale. Mentre sto qui, nella mia stanza, a scrivere i miei pensieri, in questa mia ultima notte a Maggiano, mi gridano le storie passate. E allora, addio a Maggiano, ma addio anche a Lucca e a tutto il resto. Questo è un diario, Mario. E dunque in queste pagine, in queste righe, abbandonati e svela in questa ultima tua notte qualsiasi nascondiglio della tua anima. Di che hai paura, Mario? La morte non la temesti mai. E allora quello che ti è rimasto in te ancora sepolto, aprilo alla luce e stendilo chiaro nella scrittura. Perché questo e solo questo significa essere uomo. Ricordo gli anni 50, quando scrissi per la prima volta alcune pagine sulla mia esperienza qui a Maggiano. Era il tempo in cui non c'erano ancora gli psicofarmaci. E volli parlare di questo manicomio nel quale ero da poco più di 10 anni. Il manicomio è sopra un colle, un piccolo colle nella vasta pianura lucchese. Il colle si chiama Santa Maria delle Grazie e il paese più vicino è Maggiano. E questo nome, che è celebre nella provincia di Lucca, essere stati a Maggiano significa, ridendo, essere stati tout court dei matti. Il manicomio si erge come un bastione monumentale su una collina che si alza dopo la discesa del Monte di Chiesa. A poche centinaia di metri scorre il fiume Serchio. D'estate le cicale vi cantano perdutamente. È un paese rinserrato, stretto, che contiene 5.000 matti e 300 infermieri. E non si contano gli anditi, le scale, le soffitte che ogni generazione ha sfatto e poi ha aggiunto. La distanza dalla città di Lucca è poco più di 7 chilometri. Il manicomio si divide in maschile e in femminile. Ciascuna divisione è ordinata e disposta secondo il grado di agitazione e di pericolosità. Si parte dai tranquilli e poi si arriva agli agitati. Tutti hanno deliri e alcuni, come delle bestie, ruminano cibi e respirano. I matti Spesso sono tutti chiusi nelle sale a urlare e gesticolare selvaggiamente. E in queste sale che sono chiamate di soggiorno c'è un puzzo di bestia e di umido. Nel manicomio tutto si svolge tra i muri. È un castello che contiene 1039 matti, circa 200 infermieri e a quest'ora un medico e 19 suore. Sì, c'è anche un cappuccino che in questi giorni pensa sempre alla sua irite, un mal d'occhi che gli proviene dall'uricemia. Io sono nella mia piccola stanza nella quale respiro da circa 10 anni. In tutte quelle altre stanze che compongono questo enorme caseggiato respirano i deliri di 1040 matti. E quasi tutti vivono in camicia, Don Chisciotti, senza che nessuno li ami, né possono camminare su un ronzino al chiaro di luna. E i loro deliri battono sulle povere mute pareti intanto che loro fuma debolmente una puzza del sudore. Ho sempre pensato che questi matti sono come delle ombre con le radici al di fuori della realtà, ma hanno la nostra immagine. Ma quello che è più misterioso, domani potranno avere guariti la perfetta immagine, poi di nuovo tornare astratti, parole sole, tanto deliri. Dunque è il nostro incerto equilibrio che pengola. E allora insuperbiamoci insieme, però siamo umilissimi, che siamo soltanto uomini capaci delle opposte cose, uguali nel corso delle generazioni alla rosa dei venti. Fuori c'è la vita, la gioventù, la bellezza, la gioia che ride, qui 1000 matti rinchiusi, che sono prigionieri dei loro deliri, sono sudati, sono sporchi, sono poveri. Il manicomio è pieno di fiori, ma non si riesce a vederli. Le agitate, è il reparto più vivo, più violento, più sincero. Per arrivare alle agitate ci si cala per delle scale. E c'è un corridoio incassato e siamo alla sua porta, è fatta per la metà superiore di vetri così spessi che non possono, altro che con eccezionale violenza, essere fratturati. Al di là di questa porta, tanti stanzoni, un cortile quadrato e delle celle. Qui, tra quelle nude pareti, fuoriescono i loro gesti e prorompono parole che sono intermezzate dai canti, come se fosse la palla lanciata dell'imprecazione. Dal lumicino della porta, dal breve rettangolo di spesso vetro, ogni poco l'infermiere osserva e controlla. L'ammalato, il matto, vi vive nudo. Su un lato, vicino al pavimento, vi è un piccolo rettangolo traforato. È una reticola alta, lunga pochi centimetri, dalla quale proviene l'aria calda del termosifone. E quando il malato picchia, urla, canta, proclama inesauribilmente uguale a un dio, ebbre e trionfante, impossibile a contenere e mitigare, impossibile a trattenere tra gli altri malati che tutti li disturba e provoca, allora il malato si mette in una cella agli agitati e se una donna in una cella alle agitate. E dal lumicino della porta, dal breve rettangolo di spesso vetro, sempre lui viene controllato. Esiste un'erba presso le coste di certi mari che si radica agli scogli e molleggia verso la superficie. E quest'alga marina, dalle ciglia lunghissime, contiene iodio e staccata, seccata, emana calore. Se un uomo nudo vi si ravvolge, si riscalda. E per di più l'alga ha la buona qualità che non si incendia, non prende fuoco, la si può lavare. L'alga è usata nelle celle, un mucchietto accatastato presso la parete. E in attesa di un matto che tra le sue fila comporrà la tumultuosa follia, canterà ciò che lo opprime, svelerà in quella solitudine il suo mistero. Il mucchietto d'alga sarà la sua coperta, quel mucchietto d'alga sarà il suo vestito, quel mucchietto d'alga, quelle lunghe file di erba marina, l'oggetto del suo furore. E lui le potrà strappare, le potrà attorcigliare, quando sarà stanco, allora potranno avvolgerlo, potranno scaldarlo e un tepore potrà conciliare il suo sonno. Ma se continua la massima agitazione, lui può urlare 24 ore su 24 senza che nessuno lo rimproveri, nominare pure selvaggiamente il nome di Dio, pisciare verso l'aria, contro il muro, defecare ridendo e con lo sterco suo disegnare le pareti bianche, scrivere sui muri i nomi accompagnati dagli insulti più profondi e bere la sua stessa urina, ballare, cantare, arruffarsi la chioma come un bacco eccitato, pacatamente in se stesso confabulare, dare alla voce il tono conciliativo. L'alienato nella cella è libero. Sbandiera, non tralasciandone alcun grano, la sua pazzia, la cella, suo regno dove dichiara se stesso, che è il compito della persona umana. Gli alienati, luccicando e folgorando la loro pazzia, stanno in cella per giorni, notti di seguito, qualche volta per mesi. Sembra che per essersi dedicato ai loro deliri e visioni, per essere furenti sacerdoti di ciò che la loro stessa mente sprigiona, mai osi apparire la stanchezza. I loro corpi, i muscoli diventano semplici, diventano umili, oscuri servitori della loro pazzia, e nelle celle si osserva questo miracolo, che la pazzia dà potenza, dà una forza che è ben poco spiegabile con le misure comuni. Quando il malato si accuccia, perché la pazzia comincia a dileguare, lui sembra una bestia umana, così tutto coperto dall'alga, dalla quale spunta il lungo di una coscia la magra punta di un gomito. Se lo si chiama, lui muove il filo tra i fili di quell'erba bruna e di quell'imbrattato tira su il volto a rispondere. E quando si apre una cella di un malato all'alga, allora lui viene incontro un odore acre che ti arriva dentro, sino al cervello. Suor Giacinta, energica, quanto è teneramente umana, colei che chiude e dischiude, è la suora delle agitate. La Campani è un nero e caldo nido di ignominia, di cattiveria e di vizio. Lei cerca, lei fruga, lei sente la via per raggiungere gli animi deboli e farli soffrire. Lei è svelta nel fisico, giovane, bruna, bellissimi gli occhi, la gola lupina. Lei è così affascinata dal vizio e dall'anormale che il manicomio e le agitate sono la sua consolazione. Ogni essere umano ha come sua maggior gioia quella di manifestarsi. La Campiani non sfugge a questa legge. E quando la sua gola lupina, il suo labbro leporino, che fu subito cucito e avvertirono del suo destino, ancora imberbe divenne meretrice dei soldati e con maggiore piacere ricercava gli accampamenti della soldataglia fascista, godendo alle loro bestemmie, alla viltà che si camuffa di prepotenza e approfitta delle circostanze per sfogare il sadismo. Lei venne al manicomio quando la gioventù aveva gemmato alcune volte, ma di tante ne era ancora capace. Infatti alle agitate dimostrò e dimostra tutto il suo vigore. È un diavolo in veste di donna, erotico, dotato di ogni malizia, alterna periodi di buon umore, durante i quali è sua gioia sghignazzare ogni parola oscena, ed ecco che prendendo l'avvio da una faccenda insignificante che l'ha irritata, si mette a picchiare le malate più deboli. E la sua bocca pronuncia parole capaci di sobillare le altre malate e ferire l'animo di Suor Giacinta delle infermiere. A Suor Giacinta, mettendosi bene in faccia a lei, guardandola dentro gli occhi, le dice del membro virile che lei lo ha sognato, che ogni notte lo sogna, che lei, Suor Giacinta, si è fatta suora perché nessuno la desiderava, che è innamorata del dottore e che si sfinisce ogni notte dentro quel pensiero. E continua la Campani con quegli argomenti che per una suora sono brucianti e all'accortezza di pronunciare queste altre parole quando vi sono testimoni, per modo che la presenza di questa li facciano più pesanti. Infine, Suor Giacinta, dopo aver sopportato giorni e giorni, la propone per la cella, ma vestita, coperte e materasso. Ma la Campani, appena dentro, comincia a lacerare ogni tela, imbratta con lo sterco le quattro pareti e termina nuda all'alga. E allora lei, invincibile, comincia ad ammucchiare l'alga presso la porta, si sdraia di schiena, appoggia i nudi calcagni al legno della porta e comincia a battere con il sesso spalancato, aperto, nudo, che si può vedere dallo spioncino del vetro. E per tutta la notte, a volte per tutto il giorno e la notte seguente, ancora il giorno dopo, batte ossessionatamente sul legno della porta producendo quel rumore sordo che dà la carne colpendo il legno. E l'accento a tutte le volte che le sembra di capire possa far dispiacere all'infermiera già vinta dalle tante ore di guardia. È incredibile la resistenza che dimostra la Campania, tanto da far credere che la sua malizia diavolesca la alimenti in modo tale da rendere le forze molto più che umane. E nel settembre, all'avvicinarsi della sera, che guardo lo screzio del celeste tra i rami e di una sapienza uguale alla poesia, lo sguardo di Dio. La mia vita è qui, nel manicomio di Lucca. È qui che si snodano i miei sentimenti, è qui che sincero mi manifesto, qui vedo albe, vedo i tramonti, il tempo che scorre nella mia attenzione, e dentro una stanza del manicomio studio gli uomini e io li amo. È qui che attendo la mia gloria, la mia morte, di qui io parto e qui fino a questo momento sono sempre tornato. Ed è il mio desiderio di fare di ogni grano di questo territorio un tranquillo, ordinato universo parlare. Il manicomio, senza la distrazione dell'estate, torna evidente, vivo, torna mio dominatore. La Cora è uno dei più densi misteri umani. E solo dentro qualche attimo mi è parso di essere sicuro di comprenderla, ma subito dopo tornavo incerto. Lei è bella, bruna, forte, non manifesta apparentemente alcun delirio, ma ha l'altissima capacità di nascondere i moti dell'anima. Quando è entrata qui dentro, era la più bella e temibile ragazza di un paese famoso per la bellezza delle sue donne. Oggi i suoi begli occhi neri sono ancora pieni di un languore malinconico, consapevolezza del suo stato. Ecco quali sono stati, dopo tanta attenzione, le mie scoperte su di lei. Sa, la Cora, di essere una delinquente vile. Piacere per lei è di immaginare ogni delitto ed è così paurosa che non osa neppure di uno solo iniziare seppur vaghe maglie. Ne avrebbe anche la forza fisica, con la sua più grande alleata, la bellezza che ancora trattiene in sé. La Cora ha una patologica paura della realtà e soltanto in manicomio, dove le matte sono irresponsabili e protette, si sente a suo agio e perfino superficialmente affettuosa, ma fuori, nel mondo libero, i terrori, le tentazioni la fanno una malata. Chiede aiuti, chiede pietà, pur pronunciando parole violente, di continuo vorticando fra le minacce di un omicidio e il terrore assoluto di attuarle. Nata in una famiglia che si gloriava di essere delinquente, lei non poteva essere da meno, anzi, a causa della sua bellezza doveva essere di più. Ecco un'altra mia supposizione, che è quasi una certezza. Preferì assecondare il suo ricovero in manicomio che dimostrare di non avere l'animo di sopportarlo, quel ruolo. Per di più, per sua disgrazia, essa aveva la bellezza, che eccitava i deliri di quei delinquentoidi che la circondavano, che desideravano metterla sull'altare. Per di più ancora, essa era fisicamente forte. A braccio di ferro vinceva gli uomini, aveva i polsi robusti come fosse un bracciante. E quando la Cora arrivò all'età ragionativa, si fece palese il contrasto. Lei rifuggiva, più che le persone normali, rifuggiva patologicamente da ogni delinquenza. A uccidere anche una mosca sarebbe svenuta, era vile. E la mente però in lei continuava a incendiarsi di azioni delittuose. Ed è qui, da questo così acuto contrasto, da questo terrore, essa vide nel manicomio l'unico rifugio e la liberazione. Perché è nel manicomio che le malate possono dire ma non possono fare, e del resto sono irresponsabili. E ora, dopo questi anni di manicomio, il suo volto è pervaso da un languore malinconico, come le tante battaglie che si sono svolte nel suo animo, le ripetute constatazioni della sua paurosa natura, da cui almeno questo ha tratto come risultato e consapevolezza. Ha conosciuto profondamente se stessa e lei, con tristezza, ha ormai definitivamente capito che era ed è soltanto una pazza come tutte le altre malate. Sono stato 3 giorni a Roma. Solo ora ritorno al manicomio. Ci sono entrato da pochi minuti. Trovo subito quello che ho lasciato, umida pazzia, freddezza, cervelli, cuori chiusi, miseria. Come gli uccelli quando sono feriti e le ali aspettano su di un ramo guardando privi di speranza. Ho ritrovato lo stelo ghiacciato, le parole senza sangue, il volto senza religione, l'inconsapevolezza assoluta, l'assoluta negazione che esiste nel mondo la generosità. E così, anche qui, a Maggiano, nel manicomio di Lucca, come nei manicomi che sono acquattati in tutte le parti del mondo. Domani di nuovo troverò i più ignobili deliri, li vedrò, li conterò tra le dita e mi passeranno dentro l'animo. Soprattutto quello della Pitti. La Pitti è la disgregazione della persona. Pochi giorni fa, con violenza, furtivamente aggrediva un'altra malata. E stamani eccola qua, disarticolata, uguale a un oggetto morto posato su di una mensola. L'ho dovuta alimentare con un sondino. Aveva tumida la lingua, posata sopra la cerchia dei denti. Eppure la Pitti è giovane, bella, intatta, svettante i muscoli della gioventù e sana in tutte le fibre. Ma la demenza precoce, la schizofrenia, l'ha scomposta come in una pagina che un pazzo alterni e schiribizzi le righe e le stesse parole, così che quelle in basso tentano di respirare in alto e all'opposto luogo, e ogni senso boccheggia e singhiozza. E spaurita la vita batterà le ali verso la morte, persino temendo di domandare pietà. Tutte le mattine questo tormento della Pitti è diventata come un sarcofago, è pesante in ogni membro, negativa contro tutte, è uguale a una mota che si spappola e pesa, un fango oscuro, nero. La Pitti continua. E disgregata, chiusa, come viva, immobile dentro una tomba. E gli occhi che aveva belli sono chiusi, serrati e leggermente gonfi. Sta raggomitolata nel letto, nel buio delle lenzuola nelle quali ravvolge testardamente corpo e testa. Come fosse gongolante all'infinito di chissà quale soddisfazione. Dalle sue labbra verso un liquido poco denso e un'acquolina è diversa dalla saliva. E durante le 24 ore ne bagna lenzuoli e lenzuoli, e questo è l'unico segno di una sua partecipazione. E questa malattia è un tale mistero che io ne vorrei fuggire, perché ormai è molto tempo che la guardo. È venuto l'inverno, la Pitti e rimane lì, immobile, neppure reagisce al freddo, non mangia, non parla, non apre gli occhi, non muove un membro, se non per isolarsi di più, per inchiudersi sotto il lenzuolo. È giovane, bella, potrebbe ispirare ai giovinotti amore, ma io chiedo a me stesso cosa significa essere matti. Perché si è matti? Una malattia della quale non si sa l'origine, né il meccanismo, né perché finisce o perché continua. E questa malattia, che poi non si sa se è una malattia, la nostra superbia ha voluto chiamare pazzia. Stamani Natale, la Pitti, dalle dita di sua madre che le offriva il cibo, dopo più di 40 giorni ha mangiato da sé e ha inghiottito. Oggi che è Natale, perché? Nell'ignoto pozzo della sua pazzia arriva quindi un raggio. Nei giorni precedenti, mentre alimentavo con la sonda, lei chiusa, negativa, muta, diverse volte le ho mormorato: e allora, Pitti, anche il giorno di Natale ci farai penare, anche durante le feste, Pitti. La Pitti mangia da sé. È come in un sonno mestissimo, fatto d'occhi socchiusi, le mani aperte, abbandonate, uguale a uno spettro caldo di carne, le palpebre gonfie e quasi ferme. La Pitti ora, intrisa di umiltà, dopo essere stata tanto feroce contro se stessa, è uguale a un panno bagnato che chiede sole, implora calore. L'altro giorno mi ha detto: mi succede all'improvviso, ho paura, chiudo gli occhi, vedo le cappe bianche. Ora dico tutto. La prego, mi ascolti, dottore. ho paura di lei. Che potrebbe farmi l'elettroshock. La prego, non mi faccia l'elettroshock. La bava, la lussuria estiva, le donne che si toccano, si abbracciano, la saliva, gli occhi languidi e lucidi. E questa l'estate nel manicomio. In manicomio, nei reparti femminili, senza alcun pudore, si scarica tutta la sensualità. E loro, come bandiere vittoriose, sventano nel prato nude. E così le loro parole, i loro inviti, gli atti sono di una tale verità che rapisce osservandola. E subito dopo la vogliamo dimenticare. Sono qui rinchiuse, orbate dei loro uomini, impedite nella loro massima legge, e almeno la manifestano con le parole che si fanno aperte. E non potendo che con succedanei praticare il sesso, in questi gesti e in questi succedanei si consumano. Alle donne agitate è il luogo dove più di ogni altro ha spesso furore il tribadismo lesbismo. E subito dopo le semitranquille, ma questo fiore dalle radici robuste è sparso per tutto il manicomio. Ma qualcuna tra la cupa marea si distingue per una bellezza e per l'invincibile anarchia, un erotismo straripante di felicità, e la Marchi, una diavolessa bruna per il sole, giovane, agile come un atleta, un tricciolo che le contorna i fianchi e la fa parere una bizzarra ballerina, essa diabolica indovina e getta i fiori nell'aria della massima impudicizia. E la si osserva talmente veritiera, con sanità produce una speciale festa. La sua pazzia è una esaltazione del gusto della vita, è un'aperta voce degli istinti gioiosi, di un frutto che si apre come sorge il sole, senza alcun'altra considerazione, priva di freni, priva di incertezze. Ci sono le criminali che amano il male. La Marchi si ciba del piacere sessuale, ed è così generosa e dotata che in mancanza di uomini è allegra delle sue stesse mani di quelle delle altre donne, e ogni giorno, come per la celebrazione della presa della Bastiglia, si agita in prima fila. Ma io ho notato soprattutto questo. Il fatto più straordinario è che in genere tra loro non si scelgono minimamente per la bellezza, e quindi le orbe, le sciancate sono ricercate, il deforme e bramato, tanto che viene il sospetto che le matte siano guidate dall'odorato più che dalla vista, e ciò che più sa di bestia sia perseguito. Oppure le sessuali, per soddisfarsi al più presto, si avvicinano a quelle più facili, a quelle prive di ostacoli, perché sono senza senno e senza morale. Il soddisfacimento, essendo soltanto lo scopo, far gemere quelle mucose sensibili. Quanti gemiti, quante urla e quante implorazioni ho udito durante le lunghe notti prima di quella data che segnò il cambiamento di tutta la storia della malattia mentale. Ancora ne ho tormentata la mia memoria, e quanti episodi in questa ultima notte, canditi, feroci, disperati, a volte mi risorgono. E passando anche oggi per certi reparti, mi è sembrato che le pareti trasudino ancora quelle manifestazioni della follia così violenta. Nel 52, con Delay, Denniker e Harl, scoppiò la bomba. Fu trovato il Largactil, il primo tra gli psicofarmaci, e nei manicomi lentamente, inelettabilmente penetrò il terremoto, e crollarono i muri di cinta, le inferriate si piegarono, ogni legaccio si ammollò. Era iniziata la liberalizzazione, e per le stanze dei manicomi di ogni paese del mondo si insinuò il tepore della fiducia, si estese il verde della speranza, ventilò la permissione, perché gli psicofarmaci avevano questo potere, il potere di avvinghiare i sintomi delle malattie mentali, di soffocarne i deliri, di offuscarne le allucinazioni. Per mezzo loro le violenze, le paurose ire sembravano brancolare in una nebbia, perdere le direzioni, infine adagiarsi in un continuo torpore. Ma era proprio vero? Era vero? La sintomatologia mentale, la follia, era vero che era stata minata? Era vero che era stata trasformata in una caligine, in un fumo? La scoperta fu una grande scoperta, il 52 è una storica data, ma col susseguirsi degli anni, osservando e considerando, nacque in me una domanda che anche oggi si ripete e si fa ogni giorno sempre più assillante: i matti guarivano? I matti erano veramente guariti? Oppure la follia soltanto si camuffava? Si metteva il braccio davanti al muso come fanno i ladri criminali arrestati con le manette quando i fotografi puntano su di loro gli obiettivi? La pazzia era veramente soltanto imprigionata dai nuovi ferri, imbavagliata, a volte strozzata dalla chimica? E invece nel suo segreto ugualmente ruggiva? Questa è la questione che più a volte mi si è presentata e che mi ha tormentato. E certamente in questi miei scritti, in queste mie pagine, dovrò presentarlo, il carrellino delle cure, che spesso mi è apparso come il carrellino delle torture. Questo carrellino, che è ricolmo di gocce, di pasticche, di fiale, che è zeppo di psicofarmaci, che domina incontrastato in ogni luogo dove alberga la follia, beh, io dovrò pure mettermi di fronte a lui, a tu per tu. Ogni volta che io esco di camera, mi incammino per il viale, io gli scorgo i miei malati, di sorpasso li incrocio i miei matti, che oggi, con le gocce e le pasticche, sono frenati, sono velati, sono stretti nelle gacce, sono addomesticati. Sì, certo, sono liberi di girare per l'ospedale. E la loro più fervente passeggiata, quella fondamentale per loro, è lo spaccio, il bar degli ammalati. È un grande stanzone che la mattina alle 8 si popola di questi ex furiosi, tutta gente sopita, e qui spendono i loro soldi. Molti hanno una pensione, al manicomio sono spesati di tutto, alloggio, vitto, riscaldamento e vestiti. Anch'io la mattina entro lo spaccio per il caffè, me li rivedo tutti davanti, tutti invecchiati insieme a me in questi 30-40 anni. Alcuni mi salutano, certuni con festa come un vecchio compagnone, altri con lampi d'intesa, come a ricordare i tempi in cui c'erano antiche ladrerie, oscuri complotti. Quasi tutti lenti, nelle nebbie a causa di quelle gocce e di quelle pasticche. Oggi i malati appaiono brancolanti, occupati nelle più meschine faccende, ubbidire e alimentare i bisogni. Primo tra tutti soddisfare la gola, che è diventata la loro imperatrice. Chi riconoscerebbe in questa Campania appoggiata al banco che strascica il mio nome nella infuriata strega di un tempo, che nido di ogni malizia, albergatrice di tutte le perversità? Chi immaginerebbe nella cora che le sta a fianco la faunessa che quell'estate creò tanto putiferio e che adesso dalla bocca semiaperta cola saliva? Ma io lo so che dentro di loro ancora covano la follia, che sopra la loro testa dondola una spada e scenderebbe alle loro mani se loro si interrompessero gocce e pasticche. Sarebbe da loro afferrata, impugnata, usata contro se stessi o contro gli altri. Io lo so quello che suda nei loro tessuti. Chi c'è rannicchiato nelle tane dei loro cervelli? Questi ricoverati sono stati messi in disuso con gocce e pasticche. Certo, non destano più pericolo, o sono ombre, non sono più uomini. E qualora d'improvviso anche si destassero e sfoderassero gli artigli, giuridicamente sono degli articoli 4, si dice oggi. Cioè gente libera e responsabile. E per i medici e gli infermieri non c'è nessuna responsabilità. Mi ricordo ancora, prima degli psicofarmaci, il malato poteva esplodere la sua personalità, nuova che fosse o ereditata, poteva gridare di essere re, imperatore, poteva manifestare un odio torvo per i suoi persecutori, confessare di essere colpevole di orrendi misfatti, cantare tutta una notte. Per ore e ore inveire contro tutti e ballare oppure nel letto rigido come una stanga. Eccolo oggi, il malato, che brancola intontito con la saliva che gli cola dalle labbra, le braccia ciondoloni, liberi con gli occhi che vedono ma non guardano, evviva! Ed eccolo in ogni reparto il carrello delle cure. A due ripiani, tutte e due zeppi di bicchierini da caffè, uno infilato dentro l'altro, nel primo le gocce, nell'altro, poiché tra i due rimane uno spazio, le pasticche. E tutti i bicchierini sono numerati, ogni numero corrisponde al nome di un malato. Il carrello delle cure 3-4 volte il giorno fa il giro del reparto. Ma quali lesioni procurano sugli organi del corpo umano questi psicofarmaci? Dove, come agiscono? Come riescono di un folle, di un vero folle, non parlo dei nevrotici, come riescono a tramutare un folle in un brancolante? E se è giusto usare gli psicofarmaci, che si usino? Se messi sulla bilancia e pesato il pro e il contro, la risposta sì, allora nella giusta misura si somministrino. Lo so, i miei colleghi mi guardano con disprezzo. Mi dicono, Mario, dovresti piegarti, non capisci le circostanze. Ma perché ti fai tutte queste domande? Non affrontarli questi problemi, rimandali. Beh, anch'io dovrei fare come fanno i miei colleghi, di fronte a una sintomatologia che si infiamma, aumentare le dosi di psicofarmaco. Userei con larghezza quel farmaco che abbranca i muscoli, quell'altro che ottunde il pensiero, quell'altro tanto decantato dai rappresentanti della benemerita casa farmaceutica che spenge le allucinazioni. E allora dalla bocca semiaperta con la saliva, con tutto il volto inebetito, avrei risolto il mio problema. Ma perché non ci riesco? Io mi ricordo ancora quando qui, a Maggiano, prima degli psicofarmaci, era tutto vivo. Sì, era dolore, era fantasia, era oestro, era pericolosità, era straripante allegria, era espressione soave con i matti che esprimevano ogni luce che percorre l'infinita terra. E forse meglio adesso, che ogni volta che l'incontro delle semiombre brancolanti, delle bocche che gocciolano saliva... Ma non è forse vera, profonda gioia dell'uomo? Non è quella di esprimere se stesso? Non è forse quella di urlare la propria persona, il proprio io, anche se è cambiato, anche se è divenuto, come noi diciamo, matto? L'immagine ossessiva che dentro di me è del carrello delle cure. Ma che cos'è l'immagine della provvidenza o della moderna ipocrita tortura? Il carrello delle cure è emblema di benedetta provvidenza? O invece di ipocrita tortura. Il carrello delle cure rende tutti tranquilli, tutti beati, i medici, gli infermieri. E io mi domando, ma renderà tranquilli e beati anche i malati di mente? O non piuttosto, non dovrà mai accadere che per inerzia, per comodità, per interesse, sotto il peso degli psicofarmaci, la personalità del malato da creatura umana si tramuti in un'ombra? Mi ricordo che noi qui a Lucca, nel primo periodo in cui furono introdotti gli psicofarmaci, in verità con entusiasmo fummo tra i primi a tirare giù i muri di cinta, a strappare le inferriate, ad aprire, a dare luce. Ecco, sì, credo di poter aggiungere che noi a Lucca lo facemmo non perché si parlasse di noi, non perché arrivassero i giornalisti o le macchine televisive, non ci importava. Noi lo facemmo soltanto perché ci sembrava profondamente umano e giusto. Era il nostro semplice dovere. E per la logica delle circostanze, cioè l'ottundamento della violenza nella follia, il nostro semplice dovere, non lo sbandierammo mai. Fu il nostro periodo più bello. I malati, che erano nelle giuste condizioni, venivano dimessi. Si usava con i familiari e i cittadini la possibile persuasione perché li potessero accogliere. Tentavamo di persuadere che certi malati non sono pericolosi, che hanno invece bisogno di comprensione. e si assisteva a una cosa incredibile, che l'ex ricoverato, il dimesso, non aveva più paura del manicomio e vi ritornava perché vedeva in quel luogo come un suo rifugio. Era sempre accolto con amicizia, veniva a prendere medicine, riferiva del suo stato, domandava consigli. Numerose volte udito da questi ex ricoverati esclamare: «Sa, dottore Tobino, quasi quasi me ne sto qui 3 o 4 giorni, mi rimetto un pochino e poi riesco». Tutto si svolgeva con grande coraggio, con misura. Cercavamo di andare avanti, di progredire in rapporto a quella che era la realtà e la società che circondava il malato. Questo nostro periodo d'oro è stato assai lungo. Era avvenuto questo. Ogni anno noi organizzavamo qualunque convegni su problemi che sorgevano con l'uso degli psicofarmaci. E su tutti gli interrogativi che me, per primo, avevamo su quest'uso. Allora decidemmo, con la scusa che i malati cantano anche loro con facilità le canzoni, una cultura di tutti, di promuovere qui al manicomio, lo chiamammo il Festival della Canzone. Ogni anno da tutti i manicomi d'Italia, se non da tutti o quasi, arrivavano i malati, accompagnati da medici, da infermieri, a gareggiare con le canzoni che per lo più raccontano delle loro esperienze manicomiali. Si trattengono qui a Maggiano alcuni giorni, sono ospitati e naturalmente si realizza uno scambio di idee, di esperienze tra medici, infermieri, ma soprattutto gli stessi malati tra loro cominciano a parlare, si cominciano a conoscere, anzi, credo che non sia mai successo un tale incontro, che malati dalle più diverse regioni d'Italia giungessero a stringersi la mano, ad abbracciarsi. Io credo che la follia esista. Alcuni dei miei oppositori sono convinti che, chiuso il manicomio, svalisca la cupa malinconia, l'architettura della paranoia, le catene delle ossessioni. Io credo questo, che gli affetti, i sentimenti sono negli uomini la prima inestinguibile forza. Non è la mente l'origine dell'uomo, sono le passioni che originano tutto. Anche il pensiero e il sentimento, il seme dell'uomo, sono l'amore e la passione. In questa mia ultima notte, in cui si accatastano sul mio scrittoio gli avvisi dei diversi malati dimessi da manicomi, spinti fuori nel mondo, nella società per guarire, per inserirsi, che sono già in galera, in prigione, arrestati per atti che hanno commesso. Nessuno più li proteggeva, li consigliava, gli impediva, nessuno li manteneva con amorevolezza e fermezza. Ora precipitano chi muore, chi entra nel manicomio criminale. E mi arrivano di continuo voci e notizie. E presto sarà costretto a contare, fare la somma di quanti malati di psicosi depressiva, di malinconia endogena sono stati dimessi, curati nel loro caso, e quanti già se ne sono suicidati. Liberamente si sono gettati sotto un treno, avvelenati, sgozzati giù dalla finestra per la tromba delle scale. Luca, di fronte a tutti questi morti, ho scritto ieri notte, il tuo incanto non mi basta più.